Buongiorno da Marco Carminati. Ieri Radio 24 ha dedicato uno speciale intero a L'Emilia che riparte, dove tra le tante persone i protagonisti sono stati proprio i volontari, le tante persone che in occasione del terribile terremoto si sono subito messe a disposizione a vario titolo per dare aiuto in queste terre. Uno degli aspetti che è stato preso in considerazione quasi subito è stato quello della salvaguardia del patrimonio artistico, perché il patrimonio artistico è l'identità di questi luoghi. E in collegamento con noi c'è proprio uno di questi volontari che si sono subito prestati per salvaguardare il patrimonio artistico. È Ivan Gallini. Buongiorno Gallini. Buongiorno a lei. Ecco, allora ci racconti fin da subito innanzitutto che cosa avete fatto, quando è successo questa terribile serie di scosse, perché purtroppo non è stata una sola. Ecco, come vi siete radunati? Come è stata la chiamata dei volontari dalle vostre parti? Allora, diciamo che la chiamata dei volontari dalle nostre parti è nata tutta da un annuncio, chiamiamolo così, annuncio sul sito del comune di Finale Emilia, dove proprio specificamente veniva richiesto personale per catalogare le macerie della Torre dei Modenesi. Ecco, fin da subito quindi è stato identificato una di queste priorità, cioè appunto di non lasciare sbriciolare il patrimonio, ma intervenire immediatamente anche sul patrimonio artistico. Ecco, nella fattispecie so che voi avete agito su uno dei simboli di questo terremoto, quella famosa torre di Finale Emilia dove è rimasto sospeso a metà l'orologio. Mi sbaglio, è stata una delle vostre priorità queste? Allora, diciamo che questa qui è stata proprio il primo monumento che è stato catalogato. La Torre dei Modenesi di Finale Emilia, diciamo che è proprio il simbolo sia del nostro paese, ma è diventato il simbolo certo. Penso, di tutto il discorso certamente. Del terremoto che c'è stato. È stato proprio il primo monumento di cui abbiamo catalogato tutti i resti, tutte le macerie. Ecco, però immagino che non tutti voi, o comunque pochissimi di voi, siano degli archeologi o dei medievisti, cioè persone abituate ad approcciare questi temi. Ecco, come vi siete organizzati? Cioè, qual è stata l'organizzazione pratica nel mettere in sicurezza, nel ricoverare frammenti di questo monumento? Allora, innanzitutto è stato, diciamo, fatto tutto grazie comunque al comune di Finale Emilia. Sì. E, posso dire che sì, eravamo tutte persone che fanno lavori diversi, che non c'entravano niente con il discorso di catalogare delle macerie storiche, però grazie un pochino all'assessorato di Finale, un bel po' i beni culturali, abbiamo trovato il sistema per poter fare anche questa cosa, anche se eravamo persone che non avevamo fatto niente del genere. Certo, quindi grazie anche all'organizzazione delle sovrintendenze, che in questo caso si vede molto bene quanto siano utili, perché le sovrintendenze agiscono sui territori, conoscono molto bene i territori, si può addirittura creare improvvisamente delle squadre adatte a sistemare, diciamo così, quelli che sono i reperti che cadono da un edificio lesionato. Ma io so che l'avete fatto talmente bene questo lavoro da diventare una sorta di protocollo, cioè come si fa a catalogare mattoni antichi. Ecco, che cos'è questo protocollo della catalogazione dei mattoni che voi avete veramente sperimentato sul campo? Praticamente sì, è un protocollo nato prendendoci come esempio, dove praticamente si spiega come devono essere svolte queste attività proprio di catalogazione, nel senso la divisione di certi tipi di mattoni, la catalogazione di certi reperti storici trovati all'interno delle macerie, certo. E un pochino tutto quello che riguarda il discorso archiviare pezzi di pezzi diversi tra loro in mezzo a tutte macerie, diciamo, di un po' di tutti i monumenti storici. Ecco, quindi identificare quelle che sono le qualità anche di questi mattoni, probabilmente la posizione antica, questo vi permette di eventualmente ricostruire la posizione antica. Ecco, io so che però state lavorando ancora, cioè non è finita l'emergenza da questo punto di vista, anzi avete dei progetti che si stanno estendendo, per esempio al castello, se non erro. Allora, sì, diciamo che la Torre dei Modenesi abbiamo catalogato tutti i reperti, Adesso toccherà al castello, che comunque col discorso del freddo si passerà sicuramente in primavera. Sì. Comunque sì, diciamo che le macerie sono già state sgombrate, la strada sotto il castello dopo essere stata messa in sicurezza è stata liberata e le macerie niente, si trovano nello stesso posto dove c'erano le macerie della Torre dei Modenesi e sono là pronte ad aspettarci. Ecco, quindi progetti di eventuale ripristino, ricostruzione, che però hanno bisogno di questo lavoro preliminare attentissimo di schedatura dei materiali a disposizione. Volevo chiederle un'ultima cosa. In questo sconquasso terribile, avete trovato qualche cosa di curioso tra le macerie? Abbiamo trovato allora tanti reperti, tra cui ne posso dire alcuni, pezzi di scarpe antiche ancora in cuoio con tutti i ribattini in ferro sopra, in ottone sopra. Io mi ricordo personalmente ho ritrovato un pezzo di un'antica pipa fatta tutta in ceramica. Ecco. Abbiamo trovato un dipinto di un crocifisso. Tanti reperti, sì, tra cui anche tanti pezzi di vasi antichi e tanto altro. Volevo solamente dire che da tutto questo io ho creato, poi grazie a tutti i ragazzi che si sono dati da fare, è nata una pagina su Facebook che si chiama Volontari della Torre, dove praticamente ci sono immagini, foto di tutto quello che abbiamo ritrovato e immagini di tutto quello che abbiamo fatto. Senta Gallini, è un lavoro che nonostante la drammaticità del contesto è entusiasmante, quindi vi auguro davvero un buon lavoro per questo recupero e soprattutto anche questa curiosa premio che vi viene nel ritrovare reperti che fanno parte della storia secolare come le scarpe, le pipe, che è chiaro che in questi edifici si sono così sedimentate e solo un terremoto qualche volta può farle venire a galla. Grazie mille Gallini. Niente, e a lei e a tutti gli amici volontari che state lavorando in Emilia.